Eravamo dalle parti di Barstow, ai confini del deserto, quando le droghe cominciarono a fare effetto. Fuoco alle polveri. Go hell and Paul Berry. Radio Bomba. Eccoci, buonasera a tutti, buonasera. Benvenuti alla settima puntata di Fuoco alle Polveri, qui su Radio Wombat. Eccomi. Sette come le sette stelle di Okuto. Ecco, e questo per dire, per, perfetto per presentarvi appunto il mio compare qua, che è un po' la colonna portante del programma e che Guido, ciao Guido. Ah, io, grazie. Sì, sei te. Ciao Lore. E poi qui in regia tutti, dai, stiamo anche aumentando di numero piano piano, saremando persone, facce nuove, facce già conosciute, molto bene. Evviva, evviva, siamo pieni di ospiti sempre. Non sempre no. Li sentiamo, ma ci sono anche, ma dietro, ci sono, di noi. Ci sono dietro che sgrufolano, che stanno facendo cosa. Allora, ci ricolleghiamo alla puntata di settimana scorsa. Sì. Perché avevamo lanciato un contest, diciamo. Un super gioco. Un super gioco, che è il Toto Morti 2017, che ha avuto un gran successo, ovviamente. Boh, un sacco e ci sono arrivate le prime liste dei possibili morti del 2017. Che è pazzesco, ci hanno scritto davvero, io sono felicissimo. Anche perché hanno scritto sulla mail, sulla pagina Facebook, per messaggini, ci hanno esatto. Scritto un po' in tutti i modi. Allora, leggiamo le squadre che ci leggiamo sono state mandate e i nomi anche di sì. Proprietari delle squadre. Cioè, cazzi loro. E allora, il Pro de Minini ci manda un Gazza Gascogna, la Poelcan Silvio Berlusconi. Probabili tutti e tre, direi, ci stanno, no? Sì, assolutamente. Mi piace Elkan un sacco. Ok. Valerio, invece, Emma Morano, Martin. Sì, diciamolo però, diciamo, chi è questa Emma Morano, perché... Noi pensavamo all'inizio che fosse Emma Marrone. Io personalmente mi sono confuso. Invece abbiamo visto che è stata una... Una scelta ben oculata, ma in realtà di poco valore, di poco, no, cioè, allora, poco quotata, perché sì. Questa Emma Morano è una è famosa solo per essere ultracentenaria, a 117 anni. Quindi lei, cioè, Valerio farà sicuramente punti, però varrà meno lei di un qualcuno invece giovane, diciamo, inaspettato. Che quotata molto poco, probabilmente. Ora ancora non si è deciso i valori. Ancora non abbiamo deciso effettivamente niente. A fine anno lo decidiamo. Va bene. Andiamo poi, avanti. Abbiamo appunto Valerio, Emma Morano, Martin, lo scrittore, sì, sì. Quello del Trono e Spade. Esattamente. E Joely Fisher, che è la sorella di, sì, di Carrie Fisher. Di Carrie Fisher, e vista che è morta lei, è morta Carrie Fisher, è morta pure la mamma. E a questo punto, diciamo, è morta. Cioè, è una famiglia disgraziata, quindi dice. Accaniamoci. Ecco. Vecchio Radical invece ci manda Berlusconi, Lorena Bertè e Maurizio Costanzo. Ah, Costanzo, bello, anche lui mi piace. Maurizio Costanzo è pizzo. E poi Alessandro ci manda Berlusconi, attenzione, Massimo Ceccherini, e Pupo. Ok, e... però io, a me piace Ceccherini. Io Ceccherini lo compro all'asta di... è molto bello. E poi gli altri, semmai ve li diciamo durante la puntata. Se ce ne arrivano altri, sì, uno per esempio, l'ultimo ci è arrivato davvero 5 minuti fa, 10 minuti fa. Quindi scriveteci anche ora a postawombat@insiberia.net e sulla se avete Facebook. Le vostre, e se non ora nella settimana, noi ogni volta aggiorneremo insomma tutti i nuovi giocatori, e poi a un certo punto magari regolarizzeremo un po' la questione. Sì, che regolarizzeremo un magari po', ma non sarà una metà classifica fra qualche mese, non so. Una informazione di servizio, tuteliamoci, non ci sono soldi in palio, non no, è un gioco d'azzardo, gettoni d'oro. Che sia no. Chiaro, valuteremo se regalarvi qualcosa, no, ma sarà sì, qualcosa no, di no, la maglietta, pochissimo, dai, valore, cioè, ma forse la gioia di aver vinto, probabilmente basta, avanza. Ah, dice la gloria eterna. Va bene, gloria eterna. Detto questo, possiamo mandare il primo pezzo. Ce l'ho mandato il primo pezzo? Vai. Thank you. sweeter loom than my beastone. From the grave, yeah, sell them belongings, all them clever drawings, yeah, try to make a dollar from the grave, oh, yeah, but who's to Siete voi? Soppava io? So Cristo intera? Grazie regia per questo bellissimo pezzo che non conoscevamo e che ci ha stupito. Sì, sì, veri pezzi d'autore. Grazie, grazie Andre, grazie. Sei te, allora, giusto appunto. Finalmente sentiamo una voce che non sentivamo da tempo. E giusto appunto Samir, che ci vuoi dire? Adesso noi manderemo una sigla, iniziamo con le nostre rubriche giornaliere. La prima appunto è quella di Samir. Ciao, ciao ragazzi, io sono venuto... Samir, che ci vuoi dire? Samir, che c'hai da dire? Samir! Ecco. Eccoci. Prego. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ti è piaciuta la sigla, Samir? Sì, è molto bella, vi ringrazio tutti. È una sigla che mi fa... che mi fa tornare un po'... Giovane, sì. Tornare un po' di una volta. Sono tornato per leggere una notizia assurda, come è successo in precedenza. Sì. Assolutamente. E cosa è successo praticamente? Allora, un prete a Roma... Dici, Samir, dici. È un in realtà non proprio a Roma. In Brasile. In Brasile, scusatemi, che io non vedo niente. Padre dell'Antonio Di Carli. Lui? Sì, è proprio lui. È lui. Cosa ha fatto tale padre Adelere Antonio De Carli? Forse amico del Papa. Sì, quello è... di sicuro è amico del Papa. Per forza. Sì, tanto è tutto detto papale. Sì. Insomma, cosa ha fatto? Allora, praticamente, sì. Praticamente è un sacerdote brasiliano, sì. che scompareva nell'occasione dello scorso aprile mentre... Cosa stava facendo? Esatto. Mentre cercava di battere un record, uh-huh. Volando appeso a me le palloncine per pubblicizzare un'iniziativa benefica, sì. In base al piano di finanziare un rifugio spirituale. Per camionisti. Ricapitoliamo un attimo. Avrebbe dovuto rimanere in volo per 19 ore consecutivi. Qualcosa è andato storto. Probabilmente è un errore nel calcolo della direzione del vento. E quindi? E il sacerdote si è perso in mare aperto. Sì. È morto. È morto. Ha cercato di fare del bene. Quindi io. Ma noi diamo solidarietà a questo prete o no? Cioè... Sì, le daremo solidarietà, okay. Perché comunque l'ha rischiata. Non rischiati, non attaccati mai a 1000 palloncini perché... In mezzo all'oceano Atlantico. È pericoloso, cioè, ragazzi, davvero, cioè, non fatelo. Don't try this at home. Bene, quindi questo... Questo è tutto e... È tutto. Beh, praticamente possiamo inquadrarlo un attimo, che questa morte ha vinto uno dei Darwin Awards, che è un premio dato internazionale. Un premio che viene dato a una morte stupida, la morte più stupida. E è un ringraziamento. Sì, sì, è proprio un ringraziamento, chi, grazie alle sue gesta, elimina il proprio patrimonio genetico dalla evoluzione della razza umana. E quindi è proprio un ringraziamento sentito per queste persone. Ora, il povero padre gli è andata male, però in effetti non aveva pensato una cosa proprio furbissima. No, no. Cioè, sì, è vero. Tra l'altro, è vero. Per vincere il premio non importa serve per forza morire, si può anche rimanere sterili. Esatto. Cioè, vince anche uno. Perché anche in quel mondo sterile, il tuo patrimonio genetico si perde. Esatto. Quindi ci sono, perché poi vengono votate dagli utenti, quindi c'è una giuria popolare mondiale che vota proprio queste notizie che sono vere, però sono cose successe, certo, realmente, certo. E Samir ci ha raccontato questa stupenda storia. È questo, raga, io ho raccontato una notizia assurda e spero in settimana o nella prossima puntata mi verrò con qualcosa più ancora più assurdo. Più assurdo, più... Comunque, Samir, che ci vuoi dire? Ci puoi dire qualsiasi cosa? Sì, ci puoi dire tutto ciò che vuoi, Samir. Noi ti ascolteremo. Bene, grazie mille, Samir. Grazie. Grazie a voi. Che ci vuoi dire? Samir, che c'hai da dire? Samir, Samir, Samir. Lei veramente è un po' zuzurellone. Zuzurellone. Vorrei mandarlo tutto io quel modo lì. Tutto a pezzettini. Da qui a fine anno lo finiamo. Senti, sì, piano piano. Dimmi. No, che si fa? Si va avanti. Avanti. Per forza, con direttamente subito la prossima rubrica? Perché no? Perché no? Andiamo avanti, perché finalmente sono tornati quasi tutti i rubricanti. Quindi oggi siamo pieni. Finalmente torniamo a regime. E quindi sì. Ci dobbiamo dare anche un po' una spintata. Dobbiamo dare una smossa, perché sennò poi si dura troppo. Ahimè. E quindi la prossima rubrica è... Dubiez Gare! Perfetto, sigla. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Dubiez Gare! Buonasera, buonasera, riusciamo a partire con anche questa puntata di Due Pezzi di Core. Ciao Nico. Ciao Guidone. Viva, viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat. Assolutamente. Allora, i pezzoni che vi porto oggi sono due pezzi molto belli, sono stati un'illuminazione. Un'illuminazione, due pezzi che parlano della stessa cosa, è un argomento meraviglioso, cioè i supermercati. Ah. E sono due pezzi di due colonne portanti della musica italiana, cioè Mina e Battisti. Cominciamo, ma sono due pezzi che magari non tutti conoscono, forse più quello di Battisti è conosciuto, almeno agli amanti di Battisti, che solitamente sono dei fissatissimi, per fare rima con fissatisti, diciamo. L'altro magari di Mina è proprio... è stato davvero un'illuminazione trovarlo. Il primo pezzo che porto è Supermarket di Battisti del 71. È bella la storia, perché sia questo pezzo di cui parlo adesso sia il prossimo hanno dietro un certo tipo di voglia innovativa tendente verso il rap, quasi direi, o comunque verso Mina rap. Insomma, il pezzo di Battisti è bellissimo perché fa parte di questo album, che è il quarto album di Battisti, che si chiama Amore non amore, che è stato un album molto strano nella sua carriera, uno dei suoi primi album strani. Diciamo, chi conosce Battisti sa quanto è diventato strano proprio, e cercherò di usare solamente questo termine per descriverlo. Okay. Nel corso della sua carriera, forse perché lui dall'inizio avendo fatto successo subito su larghissima scala, non era riconosciuto né dal gruppo del cantautorato, diciamo, romano, né da quello bolognese o genovese che si erano formati al tempo. Non era un cantautore come gli altri, come poteva essere Lauzi, come potevano essere... Non aveva una gang. De André, eccetera. No, in generale non godeva proprio di quell'accettazione. Stava un po' sul cazzo a tutti perché aveva fatto successo. Un po' il Fabri Fibra della situazione. Tipo Ivan Graziani, che ci dicevi l'altro giorno. Quella è una questione diversa, perché Ivan è declassato, lui invece ha fatto talmente tanto successo che da subito non era riconosciuto tra gli intellettuali, diciamo. Sì, sì. E questo pezzo, questo CD Amore non amore, lui l'aveva preparato, era un concept album, appunto Amore non amore, fichissima la storia, sono 8 pezzi. È abbastanza chiaro il senso del concept, diciamo, dell'album. Sono 8 pezzi, 4 pezzi di amore, 4 pezzi di non amore. I 4 pezzi di amore sono solo strumentali. Uno di quelli è quello che stiamo sentendo qui sotto, e hanno di testuale solo il titolo, e sono sempre dei titoli meravigliosi, sono titoli lunghissimi. Vi leggo la scaletta dell'album, che comincia con Dio mio no, che forse qualcuno conosce. Tra l'altro la storia è molto interessante perché Dio mio no fu censurata dalla Rai per una frase che diceva: la vedo in pigiama, lei si avvicina, Dio mio no, cosa fai? Che cosa fai? fu censurata. Boia. Poi lui mi sa si prese anche una piccola ripicchetta nei confronti della Rai, comunque stronzato. Insomma, la scaletta di Amore non amore è la seguente: Dio mio no, e poi la seconda, Dio mio no, chiaramente è una delle canzoni di non amore, e quindi canzoni molto rock and roll, quasi riprese, sembra impresa diretta. Ma che cos'è il non amore? È tutto quello, diciamo, per Battisti si trasforma un po' in tutto quello che sembra amore, ma che in realtà non è. Ma che in realtà non lo è davvero. Gelosia oppure carnalità estrema. Voi tutti quei pensieri molto molto democristiani che sono dietro i testi di Mogol. Ok. Però comunque. Quello, certi tipi di attaccamento morboso, relazioni fedifrage o quando roba. Vecchioni invece diceva anche questo è amore. Anche questo, quando Vecchione, infatti, l'altra sponda del pensiero. Insomma, i pezzi di non amore sono così un po' tutti rock and roll, molto sporchi, molto molto sporchi. I pezzi di amore invece sono pezzi con l'orchestra sinfonica, senza testo. E solo con la solo con un titolo che descrive per lo più situazioni statiche. Allora, il primo pezzo di amore è: seduto sotto un platano con una margherita in bocca, guardando il fiume nero macchiato dalla bianca schiuma dei detersivi. Un altro pezzo di amore, poi c'è una che è un pezzo, vabbè, era già uscito l'anno prima in singolo. Poi 7 agosto di pomeriggio, fra le lamiere roventi di un cimitero di automobili, solo io, silenzioso eppure straordinariamente vivo. Poi se la mia pelle vuoi, chi conosce se la mia pelle vuoi? Se la mia pelle vuoi. Poi davanti a un distributore di fiori all'aeroporto di Bruxelles, anch'io chiuso in una bolla di vetro. Poi supermarket che sentiremo adesso, e l'ultima, che è quella che stiamo ascoltando da un po' qui sotto e che adesso ripartirà, è che ripartirà tra l'altro in questa maniera meravigliosa, cioè riparte come una motoretta. Ah, questa questo motoretta. Pezzo si chiama Una poltrona, o forse una mitragliata, comunque si chiama Una poltrona, un bicchiere di cognac, un televisore, 35 morti ai confini di Israele e Giordania. Ah. Questo è il titolo del pezzo che stiamo sentendo. È del 71. 71. Ah, è il 71. Da lì a poco la crisi petrolifera. Insomma, mandiamo adesso questo pezzo che si chiama Supermarket. Sentirete, è tremendo. È solo lui con la chitarra. Non c'è nemmeno un accompagnamento. Non c'è nemmeno una batteria. Anche se lui batte il piede. Quindi, comunque, poi è molto effettata la chitarra. È molto bello comunque il pezzo in generale. Ma non c'è niente dietro questo pezzo, cioè io ho letto alcune interpretazioni di persone che costruiscono critiche al sistema capitalistico dietro questo testo, che parla semplicemente di un tipo che va al supermercato dove lavora la sua ragazza, ma non ce la trova perché lei lo sta tradendo altrove, e lui ci torna il giorno dopo. E le dice: ah, quindi tu eri là. E fa tutta una serie di allusioni con le banane. Capito? Okay. E niente, anche tu ami troppo le banane. Quindi la nostra storia finirà. L'unica frase notevole, notevolissima del pezzo è: per questioni di risparmio di verdura. Ma nemmeno me la ricordo. La sentiamo adesso. La mettiamo. L'ultima frase vale il pezzo. Quindi il titolo è Supermarket. Supermarket del 71, Battisti. Supermarket giovedì, tu lavori lì, direttore tu lo sai, dimmi dove lei, non c'è serate, c'è di tutto intorno a me, ma lei non c'è, no. Supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, venerdì. Come mai tu non eri qui? Tutta colpa della frutta, ne ho mangiato troppa. E così sono stata a letto giovedì anche tu. Ami tanto le banane. Insomma, questo era il bel supermarket di Battisti. Siamo anche visto questa bellissima politica di questa radio, cioè di mandare i pezzi dall'inizio alla fine. Ci siamo sentiti anche il mega solone folle. È bellissima questa cosa, folle. Mi dà sempre sui nervi quando tagliano a metà. Appunto, anche perché cioè, quanta cazzimma c'è dietro una solo così pazza. Insomma, quindi comunque era questione di risparmio di verdura ed anche di praticità. Il pezzo che mandiamo adesso è la perla di oggi. Si chiama Ma chi è quello lì? È un pezzo di Mina che esce nell'87 e contenuto in un CD che si chiama Rane Supreme, con una copertina meravigliosa con un uomo nervoruto di schiena, però in realtà con la faccia di Mina sulle spalle giganti di questo. Rane Supreme ha spiegato perché si chiama Rane Supreme. Praticamente viene da una pubblicità di apparecchiature sonore che si chiamava Run, il cui slogan era Supreme. Lei ha letto questa cosa e Mina era una burlona e ha deciso di fare questo CD. Ed era un CD per lo più di cover. Tra l'altro c'è anche Nessun Dolore di Battisti, coverizzata da Mina lì. E ho letto che probabilmente dovrebbe essere uno dei due o tre pezzi in cui Mina raggiunge la nota più alta del suo repertorio in generale. Dai. Insomma, sentitevela, tra l'altro, una super cover, super cover. Quello che mandiamo adesso è sempre una cover, ed è una cover di un pezzo che si chiama Ma chi è quella là? Che in questo caso, come succede spesso con i pezzi di Mina, vengono maschilizzati, cioè femminilizzati, diciamo, perché lei era veramente un interprete, cioè un'attrice più che una cantante, un'attrice con la voce, con il canto. Si sente tantissimo in questo pezzo, che è una storia, è un pezzo che dura un'eternità. Leggo adesso 4 minuti e mezza, ma in realtà sembra molto di più, perché è proprio una storia. Comunque, questo pezzo è un pezzo scritto da Michele Sgembri e musicato aveva collaborato anche al testo da Giuseppe Cerchia. Giuseppe Cerchia, in arte Pino D'Angiò, il grande Pino D'Angiò, nato a Pompei nel 52, è quello che aveva fatto questa grandiosa canzone che stiamo sentendo adesso e che magari la maggiore parte delle persone conoscono per la cover dei Flaminio Mafia. Ah, infatti mi sembrava. Ma senti quanto è figa. Attento lei, lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai? Insomma, questo pezzo qui, pensa, è stato probabilmente il primo pezzo rap nella storia dell'Europa. O quantomeno è stato questo grande Pino D'Angiò è stato il primo a fare una canzone rappando su una base campionata funk. Cioè il primo a fare rap sul funk in Europa. Tanto che è stato un pezzo incredibile, è stato pubblicato in 30 paesi, ha venduto più di 12 milioni di copie. Pensa. Quella fa in generale, quindi il rap era ai suoi inizi. È stato conosciuto, sì, certo, ma sì, stiamo parlando... Ma quindi vende tutte queste copie in giro per il mondo, doppiamente di valore. Sì, ma è incredibile, è stato veramente un super super successo degli anni 80. E adesso non mi ricordo quando è uscito, ma mi pare sarà stato tipo nell'82, nell'85 massimo. Mm-hmm. Ed era campionato appunto sopra il basso di Ain't No Stopping Us Now, di un duo. Cercatela su internet, Ain't No Stopping Us Now. Magari la mettiamo in link nella... La mettiamo in link, è un super bel pezzo. Comunque, questa base qui che è memorabile. E insomma, il pezzo che vi facevo sentire adesso è Ma chi è quello lì? Rifatto da Mina, e vi consiglio, questo lo metteremo sicuramente in link, il video in cui a cantare il pezzo, a girare il videoclip è Monica Vitti e Orazio Orlando insieme in questo video dell'88, è una cosa da pisciarsi sotto, veramente un video meraviglioso, ai limiti della televisione italiana, davvero. Ma perché la canzone è una storia tragica comunque. La canzone è folle, una donna annoiata in un supermarket che si innamora da un momento all'altro di qualcuno intorno a lei e tenta approcci sconsiderati. Bellissima, delle frasi meravigliose. Fate caso alle rime che fa con le cosce, perché lui dice, è bello perché è l'apprezzamento di una donna che adocchia l'omone al supermercato, e quindi dice questo qui con le cosce come copertoni, oppure con le cosce come due tinozze, con le cosce come carri armati. E le rime che fa con queste parole sono tutte da gustare. È bello perché nella versione maschile del pezzo, quella cantata poi da Pino D'Angiò, che lui ha fatto un anno dopo, ha fatto uscire con la sua voce, è diverso, perché la donna ha le cosce come due grissini, certo. Ha i seni come mandarini, e invece in questa versione è proprio molto più spassoso l'aspetto linguistico. Ascoltiamola. La pasta ce l'ho già e non la devo comprare. Quel formaggio francese mi sconquassa le spese, ci dovrò rinunciare. c'è la fila, la cassa e la voglia mi passa. Non ho voglia ad aspettare qui. Il carrello è pesante, troppo. E mi sono anche rotta. Ma chi è quello lì? Con le cosce come copertoni. Quello lì, quello lì! Vicino al banco dei peperoni. Io lo devo conoscere assolutamente. O mi scoppia la mente, poi non vivo più. Se mi invento qualcosa, un'idea brillante, ce n'ho sempre tante che mi tirano su. Quello lì, quello lì. È una roba pesante, lo sento. Vero talento. Andrò all'attacco al banco del tè. Scusi, scusi, lei, sì, lei. Mi consiglia i pomodori migliori? Sono stanco ad andare in giro. Quelli lì con l'etichetta fiori. Ah, un consiglio prezioso, sa, vivo da sola e sono molto golosa. Ma intanto lui se ne va. No, io continuo a parlare, non mi ascolta più. Intanto lui se ne va. Intanto lui se ne va. Intanto lui se ne va. Intanto lui se ne va. Come due tinozze. Quello lì che sta passando vicino alle cozze. Io lo devo conoscere assolutamente. Vado lì, glielo dico e non ci penso più. Non sarà elegante, anche se s'offende non mi importa niente. Non resisto più. Quello lì è una roba pesante, lo sento. Un vero portento. Ora vado all'attacco e lui sarà per me. Senti tu. Mi fai un buco nel cuore. Una roba banale. Ma mi piaci così. Fare. Ci ripenso mentre scelgo il caffè, ma poteva restare, ma la voglia mi passa, ma vicino alla cassa, non ho niente più da fare qui, sono molto delusa, troppo, e mi sono anche rotta. Ma chi è quello lì, con le cosce come carri armati? Quello lì, vicino al banco dei surgelati, io lo devo conoscere assolutamente, mi scoppia la mente, poi non vivo più. Qualcosa, un'idea brillante, ce n'ho sempre tante che mi tirano su. Quello lì, è una roba pesante, lo sento. Quello lì, un vero talento. Ma chi è quello lì? Con le cosce come due autobotti. Quello lì, vicino al banco dei prosciutti cotti. Io lo devo conoscere assolutamente. Mi scoppia la mente, non esito più. Insomma, questo era meraviglioso. Ma chi è quello lì? Quindi con le cosce come due tinozze che sta passando vicino alle cozze. Cioè, momenti meravigliosi. Nella versione maschile, dicevo prima, era con le cosce come due grissini vicino al banco dei formaggini. Però è molto più finta, cioè si sente che è proprio... Sì. Una, come al solito Mina riesce tutto perfettamente bene. Insomma, evviva, viva Fuoco alle Polveri, evviva Radio Wombat. Ci sentiamo la settimana prossima. Baci a tutti. Ciao Nico, settimana prossima. Dai. Salve fratelli. Salve. Glielo hai detto tu che siamo fratelli? Io? Chi lo conosce? È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Ciao, ciao, Nico, ciao. Ciao, Nico. Era chiaramente Whitney con noi a fare la sua due piazze di core. E invece in realtà no, giusto. Era registrata, infatti era un po'... Forse sottotono perché era tardi, stavamo registrando in una casa al chiuso. Comunque, i nostri inviati continuano a fare il loro lavoro. Continuiamo su questa follia, mi piace. Sì, continuiamo su questa follia dell'inviato. Abbiamo un altro folle sì. A noi, cioè. Sta succedendo un delirio. Non lo puoi fermare. Ma volevo dire una cosa, mi è venuto in mente un pensiero tutto, trash. Dimmi tutto. Il pensiero trash è questo: se il prete di prima, ci raccontava Samir, non era morto, non poteva entrare nel Guinness. No. Perché avendo il voto di castità, comunque il suo seme è perso. Ah. Pensa a te. La testa è tanto vaga. Allora, parliamo un po' di quello che succede in giro, che succederà. Sì, sì. Un po' di eventi. Sì. Io volevo subito segnalare che alla polveriera è iniziato già da un po', ma continua. Iscrivimi. No, che c'è stato segnale. Troverete al quale assolutamente segnare purtroppo 3 di data e Joker invece poi smanno gli alberi nel parco, in quello che doveva essere il parco della Piana e che non sta avvenendo se non grazie all'intervento delle persone che stanno lottando sul territorio lì tra sì, campi Sesto nonostante i sigilli messi al presidio, nonostante insomma tutti i bastoni fra le ruote, continuano nel piantare alberi per contrastare anche simbolicamente, non solo simbolicamente ma anche fattivamente, quella grande opera che vuole essere l'inceneritore che, sì, che poi è il binomio in realtà inceneritore aeroporto, esatto. Su tutta la Piana, che va a impattare chiaramente su tutta la città. Poi insomma ne abbiamo parlato lungamente e ne riparleremo, no, anche in generale nella città. Sì, perché? Assolutamente, anche perché secondo me potremo mandare degli inviati domenica e, esatto. E sentire poi qualcuno magari che ce ne parla in modo più approfondito e più... Assolutamente, non mancheremo di fare questo servizio a tutti coloro che ci ascoltano. E, novità. C'è una comunque, novità? Dici, Samir, io vorrei vedere una cosa sul inceneritore, che comunque Vai. Ci vivo più o meno vicino. E trovo che è una cosa terribile. Cioè bruciano di tutto. Era tipo 3-4 giorni fa, c'era un puzzo all'aria, fa schifo, sembra che bruciano acido solforico, batterie di macchine, sta roba così. Comunque l'aria è respirabile. Peso. Cioè, esatto. Pensate che ora non è costruito già. Ancora non c'è. Immagini quando lo costruisco. Io ogni tanto faccio una domanda, dico: ma dove è finito le persone che fanno parte dell'iniziativa del sì. ministro della salute? Non fanno presidi, non fanno protesta verso il dipartimento dell'ambiente. Cioè questa gente va martellata. È vero, va martellata. Dici azioni, tu suggerisci azioni più mirate verso le istituzioni, quindi sì, forse mi sono espresso male, ma però si è capito. Penso. Sì. Io ho capito. No, sì, comunque è questo che dicevo io. Sì, cioè di continuare ad attivarsi contro quello che vogliono fare, che vogliono costruirci giusto, sotto casa nostra, giusto. Ma poi sotto casa in generale, sotto casa delle persone. Anche se è inverno e fa molto freddo, continuiamo a lottare. Fa molto freddo, l'aria è un po' inquinata, e ecco, si sente l'ex, perché quello non si respira bene, malato di cancro, la signora c'ha asma, non respira più. Comunque sì, l'aria sì. è molto inquinata, ma penso... tanto inquinato lì, oltre quindi replichiamo la lotta, replichiamo questa lotta, replichiamo la rotta verso questo inceneritore. Dobbiamo Bene. Vedere come se la possano spostare o fanno qualcosa. Ma sai cosa, potresti essere tu il nostro inviato domenica a intervistare le persone, sì, che ne pensi? Mi piacerebbe, sinceramente mi piacerebbe. Allora, dai, benissimo. Quindi diciamo, replichiamo la lotta, come anche, cioè, replichiamo anche poi invece tutti i programmi all'interno della radio, perché c'è questa upgrade, questa evoluzione della radio che chiaramente non si ferma e continua sempre a migliorarsi, anche a livello tecnologico. Per cui probabilmente a breve partirà tutto un sistema per cui durante le giornate ci saranno repliche anche delle puntate già sono andate in onda, quindi non c'è necessità sempre di guardare i podcast, ma potrete anche sintonizzarvi e probabilmente troverete qualcosa che volevate ascoltare o okay, che non conoscete, che conoscerete. Esatto, quindi l'offerta si amplia e quindi assolutamente vi invitiamo a continuare a restare sintonizzati qui su Radio Wombat. Ottimo, ottimo, ottimo. Torniamo alle nostre fantastiche rubriche? Sì, a questo punto questa qui praticamente non è nemmeno tanto una rubrica e è praticamente un momento live, senza praticamente, è un momento live e però abbiamo una sigla. Ciao Pizzo, benvenuto Pizzo, Piririo qui sta e vi presento un grande compagno che è proprio il pezzone forte della... E questa era la sigla, praticamente. Questa era la sigla. Questa era la segreteria del Pizzo. Dopo 5 secondi potete lasciare un messaggio. E via. Ci sono? Ci sei? Ci sono? Ci Ciao! Sei. Grande Samir, cioè non ho parole veramente, così guarda, questa sigla introduce, cioè mi introduce in maniera proprio agile e sciolta all'interno dell'argomento che andrò a trattare a questa girata. Allora ciao, io sono il Pizzo, è un po' ci si conosce comunque, questa canzone non la presento nemmeno perché tanto è una canzone molto famosa, però dico che questa canzone la faccio, cioè la faccio, insomma la coverizzo ovviamente, cioè soltanto nei momenti in cui io mi sento a casa, cioè anche se questo non è proprio necessariamente un luogo fisico, è una radio e tutto quanto, qua a Radio Wombat, qua a Fuoco alle Polveri, ci si sente a casa e quindi questa qua è una canzone per la casa, Dio buono. Home is where I want to be. Pick me up and turn around. I feel numb. Born with a weak heart, I guess I must be having fun. Less we say about it, the better. Wake it up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing's wrong, nothing. Home, where I want to be, but I guess I'm already there. I feel numb, I lifted up the wind. I guess that this must be the place. I can tell one from another. I'll find you when you find me. There was a time before I was born with someone else. This is where I be, where I be. Oh, I got plenty of time. Oh, you got light in your eyes. Passing of time, never for money, always for love. Coming up and say goodnight, say goodnight. Home is where I want to be, but I guess I'm already there. I come home and lifted up the wind. I guess that this must be the place. I can tell one from another. I found you and you find me. That was a time before we was born. Be someone else. This is where I be, where I be. Hi, oh, watch after that out. Hi, oh, sag it into my mouth. Hello, who this kind of people? You got a face with a view. I'm just an animal looking for a home. Sharing some space for a man or two. And you love you till my heart goes. Love you till I'm dead. Eyes that light up, eyes look to you. Cover up that black spot. Grande Pizzo. Grazie, Pizzo. Grazie. E questa è la This Must Be The Place. Deve essere questo il posto, insomma. Ed è una canzone dei Talking Heads, per chi non li conoscesse, ma insomma li conoscono quasi tutti, suppongo. Dal 97 al... no, scusate, dal 77 al 91. Ho fatto un po' di casino. New York, David Byrne principalmente, poi altri tre strumentisti, Jeremy Harrison, Chris Hans e Tina Herwood, che sì, erano tastiere, batteria e basso. E tra l'altro Franz e la cosa e la Werwood stavano insieme, tra l'altro. Ok, so. Werwood. Si chiama Werwood lei. Era brava. E però diciamo, questo pezzo mi piace parecchio e è incluso nell'album del 1983, che è il loro quinto album, che si intitola Speaking in Tongues. Ora è carino spiegare il significato di Speaking in Tongues, cos'è che vuol dire, perché dai, tradotto letteralmente vuol dire parlare nelle lingue, in realtà, così, che insomma niente di che. Però in realtà Speaking in Tongues è più un cioè richiama di più diciamo un'automaticità del linguaggio, un linguaggio dell'inconscio, diciamo più il non verbale, diciamo, è lo Speaking in Tongues, è il parlare non parlando, ecco. Questo è il titolo dell'album. Nello specifico io vorrei parlare un attimino di David Byrne, sì, che nulla, scozzese, diciamo americano, perché poi dopo sei anni, credo, insomma, ha vissuto sempre in America praticamente, perché i suoi genitori sono migrati. E praticamente è a mio parere un artista molto, molto importante e molto particolare, perché guarda le cose da un punto di vista... tutto suo, molto originale e molto, appunto, molto particolare. Perché è una persona particolare? Poiché ha la sindrome di Asperger, che è una sorta di autismo, diciamo, una forma di autismo ad alto funzionamento. E quindi, cioè, io credo che da questo, oltre che, non so, dal substrato da cui derivano queste canzoni, questi album, sono stati scritti tutti a New York, insomma... tutto questo ha portato alle canzoni di Talking Heads, non lo so, un senso diverso. Vengono viste le cose come le vedrebbe appunto un Asperger, ecco, con un'attenzione particolare ai inusuali dettagli e non lo so, un senso sempre di strana socialità, di strano modo di approcciarsi alle persone. E quindi nulla, wow, bello, viva! Grazie, per noi siamo stati in silenzio perché ti abbiamo ascoltato molta attenzione. Davvero rapiti. E grazie, quindi ci... Guido ironizza forse. No, Guido forse ironizza. Non ho detto nulla. Era rapito davvero, l'ho visto. E ora bisogna fargli la sigla di chiusura. La sigla di chiusura? No, però... No, è roba di Samir. È roba di Samir, adesso è svanito, quindi... Niente, sigla di chiusura. Samir, se vuoi. No. Va bene, Pizzo, allora ci... Ci sentiamo e ci vediamo. Certo, ci sentiamo e ci vediamo. Cioè, ci sentiamo di base. So. Con gli altri, con noi ci vediamo. Noi ci vediamo. Che fai domani? Dai, e bellissimo il pezzo live. Adesso mandiamo un pezzo non live, un pezzo dalla regia. Breath, breath in. Under your bedroom window, throwing up a brick. No one came, I threw one more, that really did the trick. Your daddy came and banged my head. He said, what kind of man is this that's hanging round my girl? Threw me in the can. You're a farmer's daughter, you're a farmer's daughter. Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? I won't get no more eggs and water. Now I've laid the farmer's daughter. Down, your daddy's face all pale, says come with me you hairy bum, I'll put you in my jail. You're a judge's daughter, you're a judge's daughter. Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? Now I'm getting jail and torture, 'cause I made the judge's daughter. Yes I did, it was nice. Earth Breathing. E ora legge tasso. Vedo la mia mano che si schiude sul tavolo. Essa vive, sono io. Si apre, le dita si spiegano e si tendono. È posata sul dorso. Mi mostra il suo ventre grasso. Sembra una bestia rovesciata. Le dita sono le zampe. Mi diverto a muoverle in fretta, come le zampe di un granchio caduto sul dorso. Il granchio è morto, le zampe si rattrappiscono, si richiudono sul ventre della mia mano. Vedo le unghie, la sola cosa di me che non viva. E ancora, la mia mano si rivolta, si stende pancia a terra, adesso mi presenta il dorso. Un dorso argentato, un po' brillante. Sembrerebbe un pesce se non avesse dei peli rossi al principio delle falangi. Sento la mia mano. Sono io, queste due bestie che s'agitano all'estremità delle mie braccia. La mia mano si gratta una zampa con l'unghia d'un'altra zampa. Sento il suo peso sul tavolo, che sono io. Continua questa impressione del peso, non passa mai. Non c'è ragione perché passi. Alla lunga è intollerabile. Ritiro la mano, me la metto in tasca. Ma subito, attraverso la stoffa, sento il calore della coscia. Ritraggo subito la mano di tasca e la lascio penzolare contro lo schienale della sedia. Adesso ne sento il peso in cima al braccio. Pesa un po', appena appena, mollemente, midollosamente esiste. Non insisto più. Dovunque la metta continuerà ad esistere ed io continuerò a sentire che esiste. Non posso sopprimerla, come non posso sopprimere il resto del mio corpo, il calore umido che mi insudicia la camicia, né tutto questo grasso caldo che si muove pigramente come se lo si rimescolasse col cucchiaio, né tutte le sensazioni che circolano lì dentro, che vanno e vengono, che salgono dal fianco all'ascella, oppure vegetano tranquillamente, dal mattino alla sera, nel loro angolo abituale. Mi alzo di scatto. Se soltanto potessi smettere di pensare, andrebbe già meglio. I pensieri. Non c'è niente di più insipido, ancora più insipido della carne. Si trascinano a non finire e lasciano un gusto strano. E poi ci sono le parole dentro i pensieri, le parole incompiute, le frasi abbozzate che ritornano sempre. E peggio di tutto il resto, perché me ne sento responsabile e complice. Per esempio, questo doloroso rimuginare. Io esisto. Sono io stesso che lo faccio durare. Io. Il corpo, quello vive da solo, una volta che ha cominciato. Ma il pensiero che sono io che lo continuo, lo svolgo, esisto. Penso che esisto. Oh, che lunga serpentina questo sentimento di esistere. Sono io che lo voglio, piano piano. Se potessi trattenermi dal pensare. Provo. Ci riesco. Mi pare che la testa mi s'empia di fumo. Ed ecco che ricomincio. Fumo, non pensare, non voglio pensare, penso che non voglio pensare. Non bisogna che pensi che non voglio pensare, perché anche questo è un pensiero. Non finirà mai, dunque. Il mio pensiero sono io. Ecco perché non posso fermarmi. Esisto perché penso. E non posso impedirmi di pensare. In questo momento stesso è spaventoso. Se esisto è perché ho orrore di esistere. Sono io che mi traggo dal niente dal quale aspiro. L'odio, il gusto di esistere sono altrettanti modi di farmi esistere, di affondarmi nell'esistenza. I pensieri nascono dietro di me, come una vertigine, me li sento nascere dietro la testa. Se cedo, mi arriveranno davanti tra gli occhi, e io cedo sempre, e il pensiero si ingrossa ed eccolo, immenso, che mi riempie tutto intero e rinnova la mia esistenza. La mia saliva è dolciastra, il corpo è tiepido, mi sento insipido. La nausea, Jean-Paul Sartre. A letto, tasso. A letto, tasso. A letto, tasso. Una cosa del genere, secondo me. A letto, tasso. A letto, tasso. A letto, tasso. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? Oh! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Era Nanni Moretti. Secondo me, se ci metteva una bestemmia alla fine, era perfetto. E prima era il tasso. È arrivato era il tasso. Un fantasma e ci ha tirato fuori questa super lettura. Ci ha letto questo Jean-Paul, che è bravino. Sì, bravino. Emergente. Emergente, sì. Noi invece possiamo andare anche avanti. Sì, sì, e sì. Tra un po' è tornata finalmente la Kate dal profondo sud con una nuova ricetta. E prima invece mandiamo un pezzo, che dici? Ma sì, dai. Ma sì, sì. Ma sì, ma perché no? Che ce frega a noi. Mandaci qualcosa di bomba. Ciao Nicola. Days that will excite and make you dream of me at night. Impastando si impara. Mi serve un papelillo, mi preparo un cigarrillo e una cina pa' canudo de cachés. Sì, invece sì. Ciao ragazzi. Ciao, bentornata. Sono tornata, dopo 3 giorni di apocalisse di viaggio, ma sono riuscita ad approdare a Firenze, finalmente. Perché giù c'è la neve, praticamente. C'è stata la neve, esatto. E quindi sono rimasta bloccata su una nave al porto di Palermo per 10 ore. Bello. È stato bellissimo. Però niente, ce l'ho fatta. Viva. Microfono, sistema il microfono. Sì. Allora, quindi innanzitutto ti abbiamo aspettato per tanto tempo. Sì, tu, ma io vi ho ascoltato sempre. Ascoltato. Che cosa succede? Vabbè, intanto diciamo che sì, nel frattempo la Kate era giù, sì. Lillo Birillo ci ha deliziato. Volevo ringraziare Lillo che ha mandato avanti la rubrica in maniera è vero. tutti quanti comunque, okay. Bravi, bravi. Va bene, e bene. Voi mentre parlavate io cucinavo e vi ascoltavo insieme. Perfetto. A mia madre, fa, ma questi, ma che stanno? Ah, San Radio, se. Comunque, che allora, racconti? Oggi vi porto, guarda, scelta last minute, infatti ho chiamato prima mio padre, sant'uomo, che ho detto, ma spiegami 10 minuti qua velocemente che non lo faccio da un sacco di tempo. Niente, scendo a Palermo, io ogni volta mi faccio i miei soliti tour culinari, diciamo, forza. Che mi ricordano la mia gioventù, la mia adolescenza, eccetera, eccetera. E niente, oggi vi porto le panelle. Le panelle? Perché? Perché le panelle fondamentalmente sono farina di ceci. Farina che qui in Toscana è usata tantissimo. Tantissimo. Sì, e infatti mi piace un sacco questa cosa. Voi la trasformate in maniera più salutare, per esempio con la cecina. Sì. Che è fantastica, cioè al forno, bella, Gagari, Livorno, grandi sogni. Mamma mia, mamma mia. All'Ilba. Mamma mia, mamma mia. E niente, quindi come usiamo la farina di ceci a Palermo? Facciamo le panelle, che sono uno dei piatti più rinomati dello street food. Ora lo chiamano street, certo. Food. A me mi viene il lanzo, mi viene quando sento sta parola street food. Ma che cos'è? Boh, non ha proprio senso. Comunque, che cosa facciamo? Che cosa? Sì. Prendiamo, allora, sì. Questa farina di ceci, un chilo. Su un chilo di farina vanno più o meno 700 ml di acqua. Ok. Mio padre mi ha spiegato cosa fondamentale. Che facciamo? Prendiamo quest'acqua e pian piano versiamo la farina di ceci dentro sì. Una pentola, giusto? Ma man mano che la versiamo, noi la andiamo a maneggiare con le mani, a farla sciogliere nell'acqua in modo tale che non formi i grumi. Ma l'acqua, okay? È fredda? L'acqua è fredda ancora, okay. Sì. Quando sciogliamo tutta la farina, mettiamo il sale, sì. In tutto c'è un pizzichino, e la mettiamo sul fuoco. E qui ci vuole, infatti per questo ho chiamato mio padre, perché è, diciamo, il responsabile di quando si fanno le panelle a casa, perché ci vuole un po' di olio di gomito, diciamo, di braccio possente. Braccio possente. Perché? Perché si accende il fuoco va, sì. Bassissimo, e in pratica si deve stare a girare in continuazione, perché c'è il pericolo che si attacchi al fondo, che solitamente un pochettino si attacca. Infatti con quella poi ci fanno un'altra cosa che poi vi spiego, okay. Con l'attacco sì. Della pentola, il pezzo, sì, buono, sì. Pezzo meglio è il pezzo, sì, lo scarto, che paradossalmente è... il rosticino, chiamava mia nonna, il rosticino, lei meglio il rosticino, esatto, sì, con questa voce. E quindi, allora, mio padre mi ha detto questa cosa fondamentale. Quanto deve stare sul fuoco, diciamo, questa polenta molto andata, diciamo, finché con il mestolo di legno si mette in piedi in mezzo alla pentola. Quando non si muove, che rimane in piedi, è pronto. Okay. Però ne passa veramente di tanto tempo, cioè si tratta quasi di 3/4 d'ora. Vabbè, sul fuoco a girare. Okay. No, effettivamente il un po' di braccio del tennista, vuole, probabilmente, quindi devi, sì, girare in continuazione. Sì, sì, sì, sì, oh, yeah. In continuazione. Quindi ora che facciamo? Ora, a casa, quelli che hanno le bancarelle per strada con il lapino, la friggitrice incorporata nel lapino, eccetera, eccetera, usano degli stampi appositi, diciamo, per creare poi la forma delle panelle. A casa come ce la zizziamo? O prendiamo delle vaschette di plastica, oppure si prendono le bottiglie di plastica, si taglia la parte di sopra e si mette dentro questa polenta. Okay. Quindi non è rettangolare per forza la panella? Dipende, no, anche tonda può essere. Sì, sì, sì. Come questo, poi nelle fiere addirittura le fanno con le formine sopra, dei disegni troppo carini. Comunque, noi a casa lo facciamo così, sempre con la bottiglia. Si prende la bottiglia, si taglia, si mette dentro e deve, in pratica deve raffreddare, deve essere lì più di mezza giornata. Ah, aspetta, io ho scordato una cosa importante. Verso la fine della cottura prendete un po' di prezzemolo, ok, lo tritate bello bello, e anche un po' di mentuccia, a chi piace. Non è tanto. Anche a me. Mentuccia secca, un pochettino, per aromatizzare. Il pepe e il sale ci va, okay. Dentro. Però, okay. Il prezzemolo è meglio alla fine, così rimane più fresco, diciamo, capito? Proprio gli ultimi 2 minuti. Saggio. Sì, sì, sì, sì. E niente, quindi si mette dentro la bottiglia, si lascia raffreddare, poi si taglia la bottiglia, in pratica rimane tipo un tubo, perché diventa solida, capito? Quando era fredda. Ma la metti a raffreddare dove? A temperatura ambiente. Ah, ok. Sì, sì, sì, sì, si solidifica proprio. E ti rimane, diciamo, questo tubo, prende poi la forma della bottiglia intero e si taglia a fettine. Okay. Ok. Dopodiché olio, bello caldo. Qua una delle leggende famose, in pratica si dice che chi è che i panellari, che siano i panellari, sì, per vedere se l'olio è caldo, sputano dentro la padella con l'olio. Evviva! Se schizza è pronto. C'è questa leggenda un po' così, ma tutti quanti se la collano perché, certo, perché non poi importa. Buona alla fine, l'occhio, occhio non vede, occhio non vede, cuore non duole. Perfetto. Esatto. Sputo non si sente. Poi a me le panelle piacciono anche tantissimo così crude, prima tipo pre-frittura. Ah, ok. Tipo polenta, no, non lo so, a me sì, la polenta, io ho esperienze di polenta, non ne ho. Però sarà quella consistenza lì, quindi farina di castagne. No, è quasi, è proprio solido. Ceci, però è morbido, si taglia a fettine, sì, e sì, si frigge. E si possono mettere dentro al panino con il limone e il sale, o si mangiano così. Quindi olio caldo, comunque diventano belle dorate. E niente, e poi si gusta e si mangia. E si va, sì, ora, sì, a farle, sì, per favore. Io volevo Lillo perché magari si faceva una comparison, appunto, di come voi sapete fare la cecina? No, non dobbiamo ripassare un attimo la questione. Perché più o meno il processo è lo stesso, solo che nella cecina, a quanto ho capito io, ci va molta più acqua, perché l'impasto, quando l'ho visto fare da Gagari su quelle teglie bellissime, cioè, di pietra giganti, l'impasto, cioè quando sono l'ultima volta che sono andata da Gagari c'era il ragazzo con De André sotto e si tipo ballava per la cucina e faceva la cecina, era una delle scene più belle del mondo, sì, ragazzi. E quindi niente. E quindi magari la prossima volta lì lo chiediamo un breve contraddittorio sulla cecina, oppure passiamo ad altro. Comunque. Oppure, non so, siccome ascoltando le passate puntate, diciamo, è bello che la cucina alla fine è una cosa che unisce tutti quanti, capito? Ed è per me è bellissimo vedere come sì. Più del pallone, ci dicono dalla regia. Più del pallone. Non so se hai sentito, ma effettivamente più del pallone. Sì, sì, sì. Bellissimo. Però vedere come la stessa cosa viene fatta in 10 maniere, cioè in tantissime maniere diverse. Poi tendenzialmente qui in Italia cadi bene. Sì. Ovunque vai. Infatti, sì, a questo punto io dico anche quello che vorrei. Cioè che al posto mio qui a chiacchierare con la Kate ci fosse Lillo, che magari appunto ne capisce un po' di più e riesce a darti questo contraddittorio. Che poi Lillo è bellissimo, vegetariano. Volta facciamo così. Sì, sì, bellissimo. Sì, anche ricette vegetariane potremmo dare la prossima volta io e Lillo, perché io ho avuto una gavetta di 7 anni di, diciamo, vegetarianesimo. Sì. Momento buio della tua vita. Certo. Sì, sì, una palermitana vegetariana, ragazzi, non potete capire proprio... Emarginazione, sì, l'isolamento. Che malattia, ma perché? Madonna. Comunque, ragazzi, bella, quindi... Bella, grazie. Sì. Vi ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana, sì, con nuove ricette. Nel frattempo, se ci volete scrivere, sempre solita storia, o se volete venire a raccontare qualche ricetta, siete i benvenuti. Esatto. Quindi, Wombat, lunga vita alle panelle. Impastando si impara. See my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. Couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor for the gallows pole. C'è tutta masturbazione intellettuale. Ah, finalmente un argomento che conosci veramente a fondo. Ehi, non denigrare la masturbazione, è sesso con qualcuno che amo. Allora, Tasso, che dicono? Dice ecco, è ricominciato il campionato. No, dice che è ricominciato il campionato, la Serie A, che la gente si rimette a guardare le partite, a intasare le strade, andando la squadra a giocare in casa, a giocare il fantacalcio. Insomma, è cambiato l'anno, ma noi si rimane sempre coglioni dell'anno prima, non cambia mai niente. Ah, stai parlando dei tifosi di calcio, quindi? Ma sai, io Io ne conosco di tifosi di calcio e quando ce l'hai davanti in certi momenti diventano imbarazzanti. Ne bastano due di loro presenti nello stesso momento che subito si mettono a parlare di calcio. Risultati, mercato, schedine, idoli. E poi con quel loro lessio è pure entrato nel colloquiale, con i loro ti ho fornito un assist, gliel'hai messa ai sette, era praticamente un rigore. Senza parlare dei vari bomber e mister. Sembra che la partita se la giochino al di fuori dei 90 minuti, che tanto alla fine le partite di calcio se la guardano a sedere, eh. Dice che il calcio, oltre ad essere uno sport, è uno spettacolo, è pure una forma d'arte. E io questa storia della forma d'arte ancora non l'ho manco capita. Ma c'è chi ci ha studiato sopra questo fenomeno di massa, alla fine è gente che segue i propri beniamini, no? No, è bello pensare che fino a 100 anni fa i miti potevano essere scrittori, guerrieri, filosofi, musicisti e adesso ci stanno i calciatori. Ma a te non piace il calcio? Sì, da piccino mi garbava pure, lo seguivo. Una partita con gli amici me la fa ancora ogni tanto. Ma quando ti rendi conto che stai a sostenere un sistema dove tu non fai un cazzo, se non pagare, adorare gente che c'ha i soldi e gli escono dalle orecchie, a quel punto magari un minimo dubbio su cosa stai facendo ti dovrebbe venire. E invece no, esistono pure casi sociali radicali come quello degli ultra. Come se la situazione non fosse già abbastanza deprimente. Un gruppo di scalmanati e manco sanno come si chiamano, che trovano identitario aggregarsi in un club di Topolino come valvola di sfogo, il cui unico scopo è la masturbazione intellettuale sulla fenomenologia della propria squadra. Ma dai, campanilisti, esaltati, arroganti, eppure dal vago retrogusto squadrista, fra l'altro. Come, scusa? Ma sì, so, dei bimbi che fanno branco, che hanno deciso di dedicare la propria vita a gente che non gliene frega un piffero del mondo vero, che va dei milioni di euro e ti piscia pure chiaro. Ma ti rendi conto? E non ci puoi fare pure niente, o comunque ben poco. E che gli dice la gente? Pure il calcio è come tutte le altre cose e continua a funzionare finché gli dai retta. È un fenomeno di massa, glielo puoi dire. Ma che scopo? E quindi cosa si dovrebbe fare? Guarda, secondo me l'unica cosa sarebbe abolire gli arbitri. In che senso? Allora, se non puoi combattere il soggetto, devi cambiarlo da dentro. Inizia a proporre, leva gli arbitri, che magari pure questi si trovano un lavoro che dir si voglia, capito? In campo i giocatori si gestiscono da soli, magari litigano, se le danno in campo, io guadagno più milioni di te e io mi scopo tua moglie. Il passaggio successivo è levare pure le protezioni fra il campo e gli spalti, eliminare i controlli all'ingresso dello stadio e a quel punto la cosa si risolve da sé. Pensaci un po', al primo derby che ci sta ci purghiamo un'ottima parte degli ultra e un par di squadre subito. Mi sa che le partite di calcio a quel punto sarebbero un po' diverse. Non riesco a immaginare gli incidenti, i feriti e i danni che ci potrebbero essere. E ti sembra poco? A quel punto guarda, mi sa che pure io farei l'abbonamento premium per vedere il campionato. Gente si scanna senza copione, altro che reality. Mi sa che abbiamo appena inventato un format. Se senti qualcuno è interessato, fammi sapere, c'ho ben chiaro tutto in testa. Poi facciamo a mezzo. In soldane! Ah, te non sei niente, solo chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo. Distintivo. Siamo. Eccoci. Eccoci. Eccoci di nuovo. Dopo qua. Dopo la polemica, la grande polemica del sasso. E gli do sempre una mano, tra l'altro. Come? Gli do sempre una mano a fare certo, questa polemica. Certo. Mi sembra giusto. Fai un po' la parte. Un po' una parte un po' più tranquilla, un po' più remissiva, un po' più all'interno del. Per salvare la faccia. Arriva la risata. Abbiamo un aggiornamento nell'ultimo minuto riguardante la gara del Toto Morti. Sì. Che ci è arrivato ora, quindi è evidente che continuano a scriverci i nostri ascoltatori. E quindi è una meraviglia. E cosa ci è arrivato? Ci è arrivato dal nostro amico Lorenzo, ci è arrivato il grande Mick Jagger. Ah, ok. Umberto Bossi. Penso allora? Umberto, era però allora. Perché c'era anche la questione del trota. Però no, abbiamo detto o tutti e due oppure solo Umberto. Vale doppio però. No, tutti e due è un colpo. No, vale doppio di punti, è un colpo da vittoria assoluta. Incidente stradale. Boh. Vabbè. E poi il direttore dei nostri sogni, Emilio Fede. E questo è un gran giocatore per la propria squadra. Assolutamente. E nel frattempo è arrivato anche il nostro Marco. Ciao. Ciao. E che è pronto. Bellissimo, prontissimo per la risata di Samir live. Ma scherzi? Soltanto gioia, qui, gioia. Solo soltanto, qui in tutto il mondo. E, marchio registrato. E quindi possiamo mandare la sigla. Sigla di Musichette Buffe. Musichette Buffe! Trovare le droghe e le camicie non era stato un problema. Ma la macchina e il registratore non erano facili da rimediare alle 6:30 di venerdì pomeriggio a Hollywood. Non è mai facile trovare una macchina o un registratore alle 6:30 del pomeriggio a Hollywood. No. Bene. Ciao. Ciao, bentornati. Ciao. Evviva. Evviva. Allora, in realtà c'ero anche l'altra volta dietro le quinte, forse si sarà sentita un po' la mia voce, ma non ho fatto la mia rubrichetta, ecco. Musichette buffe. E quindi? Oggi rimedio. Bene, allora, con oggi ho pensato di affrontare un tema che, di cui avevo letto un po', che ho approfondito e che ho visto che ovviamente dai media italiani non è stato trattato assolutamente niente, ovvero, cosa è successo in autunno in Brasile? Tante cose in realtà, perché il Brasile si sa che è un paese grande e in cui succedono per l'appunto tante cose. Ma è interessante pensare che dalla fine di settembre, dai primi di ottobre, è partita, poi anche qua c'è da vedere, mi correggerò un attimino più tardi, quella che comunque si è considerata la più grande mobilitazione studentesca nella storia del paese. A posto. Wow. E che è, insomma, è interessante. Che consistenza ha questa mobilitazione? Beh, si basti pensare che, insomma, a metà ottobre si parlava di 420 scuole secondarie, 6 campus e 6 campus di 3 università statali occupate solo in uno degli stati brasiliani, perché è uno stato certo, federale. Certo. E a queste vanno aggiunte, infatti, molte altre scuole. A novembre stiamo già parlando di migliaia di scuole secondarie e 152 università. A dicembre addirittura si parla di rivolte in 19 degli stati brasiliani. Ad oggi, inteso oggi, che giorno è? Il 9. In Paraná ci sono occupati 836 istituti e 14 università. Insomma, ok. Okay. Niente, questa è la consistenza. Non è male, soprattutto contando il silenzio totale dei media, almeno italiani. Allora, ma cos'è? Perché questa protesta? Allora, facciamo un minimo di resoconto, appunto. La protesta in realtà non è propriamente iniziata a fine settembre, ma bisogna andare un po' più indietro, perché il movimento inizia alla fine del 2015, quando il governo dello Stato di San Paolo chiede di chiudere 93 scuole e ricollocare più di 300.000 studenti. Okay. Ora si sa che in Brasile molte zone sono rurali, quindi gli studenti spesso già devono percorrere chilometri e chilometri. Insomma, è una cosa che non ha reso proprio entusiasti gli studenti che già dovevano farsi magari una o due ore di pullman per arrivare a scuola. E infatti gli studenti delle scuole superiori organizzano delle proteste e dopo un mese di occupazioni e un grande evento che viene addirittura supportato da centinaia di artisti che si offrono volontari, fotografi e viene molto seguito dai media brasiliani, il governatore decide di sospendere insomma questa ricollocazione degli studenti. Da qui nel 2016 invece iniziano in altri stati scioperi generali degli insegnanti che lamentano una totale mancanza di attenzione nei loro confronti dai governi. A questo punto gli studenti appoggiano la lotta degli insegnanti e oltre a manifestare con loro iniziano a occupare gli istituti. Da qui, diciamo, si prosegue fino alla seconda metà del 2016, sì. Dopo l'impeachment del presidente, che devo leggere come si chiama perché non me lo ricordo, Dilma Rousseff, sì. Ok, inizia l'attuale presidenza, che è di Michel Temer. Io la dico alla brasiliana, ma non ho idea di come si pronuncia. Nemmeno io. Va bene così. Bene. Quando arriva la nuova presidenza, cosa succede? Succede che il governo promuove nuove azioni che si concentrano fondamentalmente in tre punti. Ora, io qui ho preso spunto da un documento che è fatto dalla Commissione di Mobilitazione dell'Istituto di Lettere dell'Università de Federal do Rio Grande do Sul, che dice: la ragione principale di queste occupazioni è il rifiuto da parte degli studenti di tre iniziative governamentali attualmente in votazione al Congresso nazionale. Quali sono? Allora, la prima è un disegno di legge di riforma costituzionale che prevede il congelamento dell'investimento pubblico per i prossimi 20 anni, qualche mesetto, che da una parte non solo rischia ovviamente di compromettere tutti i servizi pubblici essenziali, quali educazione e sanità, ma che oltretutto danneggia anche i dipendenti pubblici. Perché? Perché blocca gli stipendi, certo, per 20 anni, e vieta oltretutto la creazione di nuovi posti di lavoro. Cioè, una gioia. Insomma. Poi, il decreto legge 746, che nello specifico riforma la scuola secondaria di primo e secondo grado, e cosa fa? In teoria rende facoltative e in alcuni casi elimina del tutto materie quali arte, educazione fisica, filosofia e spagnolo. Spagnolo. La seconda lingua, insomma. Cioè, se ne frega. Infatti. Inoltre istituisce quello che è il notorio saber, ovvero riconosce alle singole scuole professionali la facoltà di assegnare materie a insegnanti non specializzati in quella materia, ma che dimostrano di avere conoscenze bastevoli per poterle insegnare. Quindi stiamo parlando di un'educazione, un'istruzione di fascia bassissima. Abbastanza, insomma, inquietante tutto ciò. Esatto. Oltretutto, questa proposta fatta dal governo non è stata minimamente discussa con la comunità scolastica né con gli insegnanti, figuriamoci con gli studenti. Il terzo punto è la proposta di legge 193, in particolar modo appoggiata dalla destra, che è nota come il progetto della scuola senza partito. Cos'è? è una proposta di legge che limita la libertà di espressione fondamentale dei docenti per evitare quello che viene chiamato l'indottrinamento ideologico. Vale. Ad esempio, non si potrà parlare di religione e sesso in classe. Ovviamente anche di politica in senso stretto. Insomma, ci rendiamo conto che è abbastanza un dramma. E nulla, e questi sono i tre punti fondamentali su cui è nata questa protesta. Ora, la protesta sta ancora andando avanti, appunto. Ad oggi, solo in Paraná, sono tantissimi gli istituti ancora occupati. È interessante, ora, mettiamo da una parte, non l'ho sottolineato finora, ma è ovvio che dove ci sono contestazioni di questo impatto, è chiaro che ci sono cariche, arresti e botte a non finire da parte dei cani da guardia dello Stato. Ma non, insomma, questo si sa, va sempre così e purtroppo sta ancora andando così. È interessante però pensare come gli studenti stanno portando avanti queste occupazioni. Esempio, sempre parlando dello stato di Paraná, che semplicemente è quello su cui ho trovato più informazioni, okay, e quindi quello su cui mi sono concentrato un po' di più, è nato il sito che è occupaparaná.org, che consiglio a tutti di visitare, che contiene la mappa dello stato consegnate tutte le scuole occupate. Questo sito serve in realtà soprattutto per chiedere classi in dono, ovvero chiunque voglia può offrire lezioni gratuitamente all'interno, okay, delle occupazioni, può andare a presentare dei corsi. Ho visto anche il modulo, puoi scegliere se sarà di una sola giornata, di 40 ore, insomma tutto il tempo che ti serve, e ovviamente c'è l'elenco di tutte le donazioni già fatte. Ad oggi sono oltre 900 le classi donate, tra cui ci sono curriculum di matematica, lingue straniere, fisica, letteratura, igiene e primo soccorso, robotica, scienze politiche, corsi antibullismo, interessante anche questo, astronomia, democrazia e uguaglianza di genere. Ok. Insomma, è interessante come in tutto questo discorso siano, insomma, gli studenti auto-organizzati abbiano dimostrato nei fatti che insomma che un'altra scuola è possibile davvero, che un'altra istruzione è possibile, non c'è bisogno di tutti questi fondi, insomma la volontà evidentemente c'è, poi sappiamo che uno stato di per sé sperpera tantissimo, quindi si può fare qualcosa. Su questo appunto, ora io do solo uno spunto, ho poco tempo, queste cose le dico sempre per chiunque abbia voglia, si vada a informare. Anzi, c'è di materiale, ce n'è molto di più in portoghese. Io non lo conosco, chiunque voglia, se ha voglia di informarsi, tradurlo e mandarlo poi alla mail postawombat@insiberia.net. Sì. Grandissimo. Insomma, sarebbe molto interessante approfondire il discorso, perché davvero se ne sa poco. Volevo chiudere semplicemente con una frase che è stata detta da uno studente intervistato, che è: impari di più sulla politica in una settimana di occupazione a scuola che non in anni di lezioni regolari. Ora i giovani sanno che possono imporre un cambiamento. E dai. Dai, sì. Bene. Tutto questo, come al solito, per introdurre le mie musichette buffe. Che in questo caso, appunto, siamo in Brasile. Io, da noto amante di samba, vi propongo in primis il gruppo per eccellenza di Bossa Nova, che sono i Sepultura. Giusto, non fa una grinza. No, non fa una piega, esatto. In questo caso è una canzone, è la prima traccia dell'album Chaos AD, che è del 93, e che si intitola Refuse, Resist. Who we are like. Rip down. between my breasts and mine. I don't want no war going down tonight. Stop this. Ok, sentiva proprio l'incazzatura degli studenti. Rifiutate e resiste. Infatti il video, se non sbaglio, di questo pezzo è proprio scontri. Esatto. A non finire. Il secondo pezzo invece, sempre per mantenersi insomma su ritmi calienti, certo, è dei Ratos de Porão, certo, che sono certo. Gruppo storico per quello che riguarda il punk brasiliano. Ok. Ma veramente molto molto storico. E ho selezionato una canzone cantata in italiano. Ah, hanno fatto una chichetta. Canzone in italiano che è tratta dal loro album Just Another Crime in Massacre Land, sempre nel 93. Ok. 93-94. E nulla, in realtà, se devo dire la verità, l'ho messa solo per quando iniziano a cantare, quando attaccano la canzone, insomma, sentirete, e nulla, eccola qua. Taglio fascista mi segue e violera, perché sa di poter contare sul vostro coraggio, sul vostro spirito di iniziativa, sul vostro non mai smentito patriottismo. Questi erano i Ratos de Porão. Pura poesia. Con quando ci vuole. Esatto. È un po' in soldoni. L'hanno detto anche in italiano per farci capire meglio. Esatto, sì. Insomma. Okay. Proprio l'inizio. Bene. Quando ci vuole, ci vuole. Io vi ringrazio. Grazie a te. Grazie a te. L'ospitalità e suppongo ci vediamo settimana prossima. Direi di sì. E ci sentiamo con chi sta ascoltando. Viva. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. musichetta e buffe! Ritorna nell'ombra! Ritorna tu non puoi passare! Esatto. Esattamente quello. Esattamente quello. E ringraziamo ancora Marchino per le musichette buffe. Sì, in generale per tutte le informazioni che ci porta, sì, certo, a tutto il mondo e che i nostri maledetti media non ci passano mai. È sempre una fatica scoprire queste cose. Quindi vi invitiamo anche, sì, voi ascoltatori a mandarci notizie, sì, d'approfondimento o anche temi che vorreste... Che approfondissimo. Sì, sì, siamo pronti a approfondire. Sì, sì, bene. Prova. Perfetto. Bene, bene. Prova, Te prega, buttalo lì che succede. Va bene. Detto questo, ci avviamo anche questa volta verso, sì, la fine. Sì, però, sì, sì, sì. Mai concludere. Mai senza. Senza un giusto consiglio. Esatto, contadino. Contadino. Sì. Datoci da il detto del giorno. Sì. Di Bricco. Dai, di Bricco. Buonasera, ciao Bricco. Buonasera. Siamo qua per il settimanale detto del giorno, quindi il detto, ottimo, settimanale. E è stato selezionato oggi un detto che recita così: gennaio zappatore, febbraio potatore. Va bene, ok. Cade in questi, ve lo dico proprio perché in questi giorni è freddissimo. E quindi immaginate voi andare a potare una pianta con questo freddo, cioè non c'è verso, non scoccia un po', scoccia, cioè prendete voi, se vi tagliano un dito, no, non ci sta. No, non, no, il paragone, no, io non me lo faccio tagliare il dito. Okay. No, no, però no, ora non si pota perché sennò la pianta si ammala. Se no la pianta si ammala, esatto, ogni ferita che fai e che viene esposta a un freddo tale come quello di questi giorni, sicuramente la debilita, la danneggia. E invece che si fa quindi in questi giorni? Quindi in questi giorni si zappa, va bene? Si prepara i terreni, perché i terreni con il freddo vengono... C'è già il freddo che fa un'azione di disgregazione del terreno e... quindi è... Però scusami, io tipo l'altro giorno dovevo andare a zappare, metti... Sì. Cioè, in realtà, dove è proprio successo questa cosa, io devo andare a zappare. Tu dovevi andare a zappare? Sì, devo andare da mio babbo a zappare, perché c'aveva bisogno di una mano nel campo. Okay. E vai lì e dici, vabbè, però c'è tutta la terra completamente ghiacciata. Cioè, se io provavo a piantare qualsiasi arnese in terra, probabilmente mi rompevo una spalla. Ci voleva il trinciazzol. Mi ci voleva il trinciazzol. Sì, ok. O un bove con un e comunque è il momento di rigirare la terra, perché così si... La terra, appunto, si... disgrega, va bene? Quindi si sgretola, appunto, proprio per quello. Va proprio bene. Per quello. Va bene. Ok, va bene. Quindi posso tornare, andare lì, spaccarmi tornare una spalla e poi essere felice. E poi vieni da me. Bene. Mentre febbraio. Mentre febbraio no, a febbraio già il freddo più grosso è passato. Il freddo più grosso tendenzialmente arriva a fine gennaio, i suddetti giorni della merla. Di cui parleremo la prossima settimana. Di cui parleremo probabilmente la prossima settimana o quella dopo ancora, non lo so. Okay. Vediamo se cade una puntata con i giorni della merda. No? Buono sarebbe. E, una volta passato il freddo più intenso, potete andare a potare tranquillamente. Anzi, dovete andare a potare. Qualsiasi cosa che avete a potare, andateci dopo i giorni della merda. E anche per oggi, non so, detto per i contadini che ci ascoltano. Abbiamo fatto. E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Bricco. Ciao Bricco. Ciao. Ciao ciao. The war was lost. The treaty signed. I was not cut. Across the line. I was not cut. Though many tried, I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. The treaty signed, there's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Yes, record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands. A husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. They're blood to me, they're dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You served them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I have to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind, never mind. I live the life I left behind. Full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Questa era Nevermind. Ti ha fatto paura il microfono? Sì, sei allontanato. Ho paura. Cazzo. Dai, dai, noi siamo sempre sul pezzo. E questo appunto era Nevermind, Leonard Cohen. Il pezzo appunto. Il pezzo, sì. Siamo su, tra l'altro, Nevercon, sì. Canzone. Scusa, scusami. Canzone, no, scusate. Canzone usata per la sigla di una serie, secondo me, bruttissima, che è la seconda stagione di, non lo so, True Detective. Ah, sì, non ce l'ho fatta a finirla. Orrenda, no, orrenda, sto dicendo orrenda. Che cazzo, non è pubblicità, più di orrenda. Allora, no. Al regista è piaciuto. Al regista, vabbè, è piaciuto, a me è piaciuta la prima. Alla prima stagione, cioè, ciao, proprio. Vabbè, sì, abbiamo chiuso il rapporto con il regista. Dopo facciamo un po'. Sì, ce la risolviamo fuori. Purtroppo però siamo arrivati alla fine, quindi abbiamo proprio il tempo di andare a fare a botte. Sì, sì, andiamo. Andiamo. Grazie a tutti per averci ascoltato anche in questa stavolta, settima, sì, puntata. Ribadiamo come le sette stelle di Ocuto. Sì. Invitiamo ancora a mandarci il Toto Morti fino a fine gennaio, direi, poi diventa facile, cioè nel senso diventa anche più semplice, nel senso. Ma dobbiamo, finché non muore qualcuno della, vabbè, lista, intanto mandato, sì, dice, una certa diremo basta, è finito, sì, il termine, ma dai, lasciamo comunque manda, va bene, scusa, alla fine ce ne arrivai 5 squadre. Facciamo, quindi mandatene ancora, mandatene, sì, ancora, sì, sì, bizzeffe, posta wombat@insiberia.net, ricordiamo, ok, e ci sentiamo lunedì prossimo. Sì, sì, wombat, fuoco alle polveri. Ciao tesoro! Ehi! Che diavolo stai facendo? Una cosa goliardica! Facciamo nudi il giro del campus! altro è nudo? Ci sono. Adesso arriveranno. Frank, sali in macchina. Si sono spogliati tutti. Subito. D'accordo. Fuoco alle polveri. Go hell, Paul Berry. Radio Bomba. Mi spiace, non stavo ascoltando.